vengo a te, vengo a te, guidami, santificami in te, voglio andare nella tua verità, prendimi, prendimi, abbracciami, il mio cuore ritorna a te, solo a te. Tua verità.